città ne parla. Mi chiamo Vanessa e chiamo da Lipsia, in Germania. Chiamo in merito alla chiusura delle pagine Facebook di Forza Nuova. Sì. E di Casa Pound, mi pare. E mi ha molto colpito questa cosa perché, fermo restando la mia totale disapprovazione di questi movimenti, diciamo così, politici, mi chiedo se questo provvedimento non possa essere controproducente, ecco, non possa essere poi utilizzato come un ulteriore strumento di campagna elettorale. Buongiorno, sono Cristian e chiamo da Genova. Io mi volevo riferire ai fatti degli ultimi giorni. Intanto sì. Il fatto del PD che è al governo, al commissario europeo e il presidente del Parlamento europeo senza aver vinto uno straccio di elezione. Ieri abbiamo avuto la chiusura degli account di estrema destra con il plauso da parte degli esponenti della sinistra. Ai manifestanti ieri contro il governo è stato impedito l'accesso a Piazza Montecitorio. Mi sembra che ci sia un problema di democrazia, ormai anche la Cina potrebbe darci lezioni in tal senso. Buongiorno, io sono Giulio. Buongiorno. Dalla provincia di Salerno. E io telefonavo per ricordare che oggi è il compleanno della senatrice Liliana Segre, che compie 89 anni. Sì. E credo che la sua vita sia una viva testimonianza dell'orrore e dell'odio che il fascismo al potere è capace di praticare. E credo che possa essere un buon riferimento anche per ricordare dell'odio che chi va in piazza facendo il saluto fascista o tatuandosi delle svastiche addosso o praticando l'odio sui social e in ogni spazio che ha a disposizione può, riferendosi a quei valori, può mettere in pratica. E credo che, ecco, in questo periodo, in queste giornate, sia opportuno ricordarlo. È tutta la città ne parla, buongiorno, bentornati da Rosa Polacco e dalla redazione. Martedì 10 settembre, ancora giornate attraversate dalla politica, giornate in attesa della fiducia, giornata che si annuncia tesa forse come quella di ieri, quando durante la discussione alla Camera la protesta in aula e fuori dall'aula della destra sono state molto accese. C'è stata una manifestazione di piazza dove non sono mancati i saluti romani e i simboli di estrema destra, e poche ore dopo Facebook ha sospeso i profili Facebook, appunto, e Instagram, l'altro social network di fotografia collegato, sempre di proprietà di Facebook, dei due movimenti di estrema destra, Casa Pound e Forza Nuova, oltre ai profili di alcuni leader dei due movimenti. Facebook, con questa decisione, ha applicato la norma sulle persone, sulle organizzazioni pericolose, che punisce atti oppure intenzioni violente contro etnie e minoranze e l'istigazione all'odio online e offline. Una giornata, un episodio dunque che pone diverse domande sugli spazi pubblici e privati, e vedremo proprio quanto sia complessa in questo caso la definizione di spazio, sul loro utilizzo, sui limiti, sulla democrazia e sul rapporto tra le leggi degli stati e dei sovrastati, come qualcuno definisce, appella i social network. Il numero per scriverci, per dirci la vostra, per porci le vostre domande è il 335 5634296. I vostri messaggi li pubblichiamo sul sito e li usiamo anche per girare le vostre domande ai nostri ospiti, i primi dei quali sono già collegati con noi. Antonio Pavolini, analista dei media digitali, buongiorno, bentornato. Buongiorno. È con noi anche Fabio Chiusi, blogger, studioso della rete Chiusi, buongiorno, bentornato anche a lei. Buongiorno. Ed è collegato già anche Andrea Lisi, avvocato, esperto di materie digitali e diritto all'informatica. Lisi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, vorrei cominciare, Lisi, a lei chiedo un po' di pazienza intanto, ma vorrei cominciare con Pavolini, se ci aiuta a ripercorrere, a spiegarci un po' nel dettaglio cosa è successo ieri a Facebook, in quel quartier generale, diciamo, in quella centrale operativa. Chi ha preso la decisione, in base a quali criteri? Allora, quando parliamo delle decisioni che prende Facebook in materia relative, diciamo, ai contenuti, non dobbiamo mai dimenticare che Facebook ha sempre declinato ogni responsabilità di tipo editoriale, ha sempre ripetuto in ogni occasione di non essere un editore, e quando prende queste decisioni si potrebbe dire che si tratta di decisioni di pubbliche relazioni, proprio perché partendo dal principio che fondamentalmente loro negano il fatto di essere un editore, a loro interessa esclusivamente difendere quello che è un legittimo interesse privato, quello di un'impresa privata. E quindi, abbastanza ovviamente, quello che succede è che prendano dei provvedimenti che servono a far sì che abbiano maggiore forza negoziale in tutti i momenti in cui con le autorità pubbliche si ritrovano a dover subire delle decisioni, per esempio quando si parla di altri temi che riguardano più strettamente il loro business, per esempio quando si tratta di stabilire quante tasse devono pagare. Non è un caso che Facebook, così come Google e gli altri grandi operatori della rete, investano tantissimo in attività di pubbliche relazioni. Quindi non c'è, come dire, una decisione di qualcuno che è responsabile editorialmente di quello che viene pubblicato. C'è semplicemente un calcolo, perché il tema, naturalmente, è un tema che riguarda la sfera pubblica. Peraltro il calcolo, Pavolini, ci porta a una domanda che ricorre spesso anche nelle curiosità non solo dei nostri ascoltatori, ma dei tanti. Abbiamo visto anche ieri i dati in Italia sull'utilizzo della rete, sono ancora molto lacunosi, cioè c'è ancora una grande fetta della popolazione che non usa la rete, il digitale, che quindi non bene forse conosce quanto lei queste regole. Insomma, chi decide un procedimento del genere? Un algoritmo o un consesso di persone fisiche? Un buon dato è quello, per dare un'idea della penetrazione del digitale in Italia, è quello uscito nell'ultimo rapporto di We Are Social, e che ci spiega che ci sono più di 30 milioni di persone che usano WhatsApp, che come sapete è il servizio di messaggistica di proprietà di Facebook, è stato acquisito qualche anno fa. È chiaro, allora, da un lato è vero tutto quello che dicevamo prima sul fatto che si tratta di decisioni private che non si assumono alcuna responsabilità pubblica, però poi quando andiamo nel mondo delle imprese editoriali vere e proprie, è abbastanza curioso sentirle alzarsi indignate come un solo uomo su questo tema, quando gran parte anche del modello di business dei media tradizionali si è fondato sul discorso d'odio. Tra l'altro poco fa su Twitter giustamente qualcuno mi ha bacchettato, io parlavo di hate speech, è più corretto parlare di incitamento all'odio. Però insomma non dimentichiamo che questo elemento, il discorso d'odio, è stato un motore del modello di business dei media commerciali, tradizionali, soprattutto la TV commerciale, ma poi molti media sono andati al seguito anche negli anni successivi. Quindi diciamo che se c'è qualcuno che deve fare la reprimenda agli over the top digitali, non sono certi i media tradizionali. Allora, sui dati e sui numeri, quello a cui mi riferivo era un articolo pubblicato ieri sul Corriere della Sera nella sezione Data Room di Milena Gabbanelli sulla nostra arretratezza, sull'analfabetismo digitale. Secondo appunto questo articolo e questi dati, in Europa per competenze digitali in Italia siamo quarti ultimi. Ma anche sull'Europa, non solo, vorrei coinvolgere Fabio Chiusi. Buongiorno di nuovo. Intanto le chiedo, buongiorno, se è la prima volta che si intraprende un'azione del genere, che differenza c'è per esempio con quando viene bloccato un account, un profilo per foto giudicate oscene, per esempio, spesso si tratta di quadri, mi spiego meglio, se pubblico la foto di un quadro o di una fotografia artistica dove compare un nudo, possibilmente, probabilmente il mio profilo verrà sospeso. Ci rendiamo conto da soli della differenza di peso tra i due esempi che stiamo portando, però invece da un punto di vista di logica aziendale, anche rispetto a quella impostazione sulle pubbliche relazioni di cui parlava prima Pavolini, che differenza c'è, Chiusi? Bisognerebbe chiederlo a Facebook, molto semplicemente, nel senso che uno dei grossi problemi, secondo me forse l'unico grosso problema di questa decisione di ieri, è la trasparenza. Cioè io non ho ben capito esattamente per quale ragione siano state rimosse quali pagine e rispetto attraverso quale procedura decisionale, insomma, cioè chi ha deciso cosa, dov'è una pagina dove noi possiamo capire esattamente quali possono stati rimossi, quali account sono stati rimossi. Io questo non riesco a capire, cioè mi sembra che le decisioni ancora una volta vengano prese in maniera, come diceva Pavolini, sulla base di certi ragionamenti naturalmente aziendali, che sono più che legittimi. Dopodiché la decisione di Facebook secondo me è sacrosanta, è una decisione che va nell'ottica di quello che dice la legge italiana, peraltro, cioè nel vietare la ricostituzione di un partito fascista o comunque vietare espressioni d'odio connotate in maniera particolare in quel senso ideologico, anche se Facebook pare dica che non ha niente a che vedere con l'ideologia, ma semplicemente con l'incitamento all'odio. E allora io lo prendo in parola e chiedo a Facebook se i post di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni, molto spesso che contengono contenuti di odio, molto spesso, se sono leciti o meno. Sono leciti, che differenza c'è? A chi possiamo chiedere questa differenza? Chi risponde? È chiaro il punto, perché un conto è l'istigazione appunto all'odio, un conto è l'esibizione di simboli, slogan, intenzioni e frasi dichiaratamente negate, proibite in primis dalla nostra Costituzione, quindi dalle leggi dello Stato. Chiusi, lei si è da poco trasferito in Germania, se non sbaglio. Sì. E, allora le chiedo, per esempio in Europa o quantomeno in Germania, episodi di questo tipo, le policy appunto, già lo ha detto, mancano di trasparenza, quindi non si può evidentemente farne un unicum, insomma episodi di questo tipo, reazioni? Sì, c'è stata diciamo una legge proprio in Germania che si chiama NetDG, che è stata approvata un paio di anni fa se non erro, e fa molto discutere, nel senso che ha introdotto nell'ordinamento giudiziario di un grande paese occidentale, europeo, insomma, l'idea che le piattaforme debbano essere responsabili in caso di omissione, cioè nel caso ci fossero dei contenuti manifestamente illegali, mi dice la legge, e vengano segnalati alla piattaforma, se la piattaforma non procede a rimuovere i contenuti entro 24 ore rischia una multa fino a 50 milioni di euro. Questo è un principio che va troppo oltre, secondo me, cioè instaurare un tipo di responsabilità di questo tipo, che poi è l'idea che è passata anche con la direttiva copyright a livello europeo, secondo me è molto pericoloso, perché costringe le piattaforme a prendere decisioni di questo tipo, in questo caso poco controverse secondo me, ma in molti altri molto controverse, in poco tempo e rischiando multe milionarie a ogni errore. Il risultato è che le piattaforme, dovendo moderare milioni di contenuti ogni giorno, implementino dei filtri automatici per cui certe parole, certi concetti, certe idee, insomma, tra l'altro filtri anche stupidi peraltro, finiscano per essere completamente censurate in questo caso. E quindi c'è il rischio appunto che per cercare nel tentativo di buona volontà di purificare, se vogliamo, bonificare, no? Le piattaforme sociali, i nostri spazi di discussione online dall'estremismo, si rischia di invece ridurli a delle vere e proprie gabbie dove certe idee non possono entrare e uscire, insomma, diciamo. È molto interessante questo caso, Chiusi, che ci sta illustrando, perché il tema della censura è l'altro aspetto della discussione che stiamo facendo, in qualche modo era anche l'accenno portato avanti da uno degli ascoltatori intervenuti questa mattina a Prima Pagina. Pavolini, giro a lei queste osservazioni. Sì, infatti Fabio, lo devo ringraziare perché ha risposto alla domanda che mi avevi fatto e non avevo avuto il tempo di articolare la risposta. La rete e tutti gli operatori della rete si fondano sul principio del best effort. Se tutto è affidato, come dicevi tu, a un algoritmo, a una tecnologia, un tema, perdonatemi la semplificazione, umanistico come la libertà d'espressione o come il discorso d'odio, ovviamente non può essere affrontato da un algoritmo, per quanto preciso possa essere. E la cosa affascinante è che nel momento stesso in cui Facebook pensa di risolvere il problema con un algoritmo, sta dicendo di poter fare solo fino a un certo punto. Semmai è molto più triste, come accade con la famosa direttiva europea sul copyright, quando tutti gli stati e le grandi istituzioni internazionali si affidano, cioè per legge ritengono che un algoritmo possa stabilire cosa deve essere censurato e che cosa no. Cioè quando c'è qualcuno che si prende una responsabilità pubblica di questo tipo, si rende evidente tutta l'inadeguatezza dell'impianto, sia normativo, ma perdonatemi, di tutto il sistema istituzionale nell'affrontare un tema complesso come questo. Senti Paolini, ha introdotto il macro tema più importante di tutti quando parliamo, anche soprattutto quando parliamo di democrazia e digitale, cioè quello della libertà. Oltre alla libertà, sua sorella, cugina, e anche la verità. In merito alla verità, un'altra domanda che le faccio rispetto ai comportamenti, alle scelte, alle strategie di Facebook, ma non solo, che da tempo mette in campo politiche sul comportamento, sulle fake news, per esempio, con esiti alternanti. Ma a che logica risponde quindi questa direzione? Cosa ci dice del soggetto liquido, ma che poi forse così liquido allora, non è della rete? Non vorrei scomodare la semiologia, ma ci sono come Jost che dicono che il tema del vero e del falso non possono comunque essere riconducibili a un testo. Ora, quello che noi pubblichiamo su un giornale o sui social media è un testo, quindi io sgombrerei completamente il campo dal tema della verità. Il dovere dell'informazione, ma anche se dobbiamo normare quello che scrivono le persone sui social media, il dovere di normare non riguarda la verità, riguarda la possibilità di fornire degli strumenti utili alla conversazione, che possono poi anche essere smentiti dalla stessa rete. Cioè se la rete venisse usata, e si può fare per verificare una notizia in modo molto più rapido rispetto a quello che si è fatto per anni con i meravigliosi archivi cartacei che ogni buon giornalista dovrebbe avere nell'armadio, e se si rimuovesse questo ostacolo culturale, ci renderemmo forse conto che il tema delle fake news non riguarda la transizione tecnologica che stiamo attraversando, ma riguarda molto di più la nostra disponibilità a riformare la questione. Abbiamo bisogno più che di verità, di strumenti per farci un'idea di quello che succede. Poi naturalmente sappiamo bene che la viralità, la potenza della tecnologia rende molto più facile la diffusione di una bugia, quindi concentriamoci sulla capacità di verificare rapidamente utilizzando la tecnologia, come fanno molti debunker, verificare appunto la veridicità di qualcosa piuttosto che andarci a incartare sul tema della verità. A me francamente fa un po' specie che ci sia una testata giornalistica che si chiama La Verità, non so a voi. Allora Paolini, lei ha citato dei testi, per esempio c'è un messaggio, quello di Enrico, che dice: esiste un documento che pronuncia il pensiero delle migliori menti vissute, parlo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, non sarebbe opportuno rendere perseguibili persone e movimenti che contrastino in maniera palese con tale documento? Non pene pecuniarie, perché i ricchi potrebbero impunemente continuare nella loro asocialità, egoismo e violenza prevaricatrice, bensì carcere o lavori forzati. Enrico ci introduce a un'altra parte del discorso, che è appunto quello del rapporto col diritto, che vorrei affrontare con Andrea Lisi, che intanto ringrazio per essere rimasto pazientemente in ascolto. Lisi, se vuole anche commentare il messaggio che le ho letto, ma poi anche tornare a questo rapporto tra le leggi italiane, che vietano esplicitamente l'apologia di fascismo, e l'azione di Facebook, che invece non riconosce questo tipo di impostazione, non dico non tanto questa specifica legge italiana, ma proprio il concetto di leggi degli stati. Lisi. Sì. Intanto grazie per avermi coinvolto, perché in la discussione vivace in verità di diritto si è già parlato. La premessa è che dobbiamo comprendere che c'è una sottile, ma a mio avviso fondamentale, differenza tra la sensibilità personale e il diritto, soprattutto quando poi queste problematiche si esprimono su scala globale, come avviene sui social. Perché guardate, è indubbio che in questo specifico caso siano stati commessi reati, come su Facebook e su altri social si possono commettere reati che possono andare dalla pedopornografia, all'apologia del fascismo, l'ingiuria, la diffamazione, l'istigazione al suicidio, fino anche alla violazione del diritto d'autore, visto che si è citata la direttiva sul copyright. È chiaro pure che Facebook, come altri social, come Instagram, come Twitter, ormai hanno assunto una dimensione che non può essere solo privatistica. Perché questo? Perché di fatto questi che sono prestatori di servizi di una società dell'informazione gestiscono entità digitali le gestiscono a livello mondiale, su scala mondiale, e sono in grado di cancellare vite digitali. Cioè, di fatto Casa Pound, per chi ha commesso determinati reati, ripeto, la mia personale sensibilità, no, in qualche modo gioisce nel momento in cui sono state cancellate determinate frasi, determinate pagine, però di fatto Casa Pound, che è un partito politico, comunque un'associazione politica, è stata completamente cancellata sulla base di una decisione di carattere privatistico, e di cui, come diceva Chiusi giustamente, non conosciamo neanche, no, le specificità, non sappiamo chi ha deciso come, se sono stati filtri automatici affidati ad algoritmi stupidi, come si è detto. E su questo devo dire che il fatto che Facebook tenda, no, a lavarsi le mani, a dire noi non abbiamo responsabilità, a mio avviso è troppo comodo. Anche perché è citata la direttiva sul copyright, ma ancora prima una direttiva proprio sui servizi della società dell'informazione, addirittura del 2000, già prevedeva una responsabilità omissiva, quindi omissiva per tutti i prestatori dei servizi della società dell'informazione. Quindi il momento in cui un prestatore di un servizio della società dell'informazione è a conoscenza di un delitto, di un illecito, e questi sono illeciti, commesso attraverso i suoi servizi, beh, non può omettere di intervenire. Deve intervenire e cancellare naturalmente quel tipo di informazioni, oppure attendere una decisione giudiziale e naturalmente sulla base di quella decisione giudiziale poi agire rapidamente. Il problema è che è molto generica naturalmente questa direttiva, è una direttiva del 2000, numero 31, giusto per citarla, che poi è stata applicata in Italia nel 2003, quindi stiamo parlando di cose vecchie. E oggi effettivamente la dimensione che ha assunto però queste piattaforme social e il fatto che, come si diceva prima, sia particolarmente difficile per il gestore di queste piattaforme intervenire di volta in volta, porta naturalmente questo tipo di gestori ad intervenire in maniera quasi automatica, quindi sulla base quasi di sensibilità personali, espresse addirittura, quindi poco personali, da algoritmi di cui ignoriamo, no, il funzionamento, e si arriva quindi a forme di arbitrio che mi ricordano un po' il far west, tant'è che ho coniato il termine proprio far west tante volte per parlare proprio di questi fenomeni. E se nel far west c'erano gli sceriffi che intervenivano per fare giustizia, il rischio che adesso siano queste piattaforme private, magari accordandosi anche economicamente con singoli stati, che possano intervenire alcune volte in maniera arbitraria, facendo giustizia. E non so quanto questo abbia a che fare con il diritto. E probabilmente c'è bisogno di strumenti nuovi. Ecco, a proposito di questi strumenti nuovi, poi nuovi almeno per come le sto per porre la domanda, non sono lisi, anzi mi perdoni l'ingenuità, non so se sia utopistico o proprio sbagliato immaginare a un algoritmo o una policy o un comitato che leghi, armonizzi, coordini le leggi degli stati a quelli del social network, e se questo che le sto chiedendo in realtà non sarebbe un'ulteriore dimostrazione di quel rischio che ci stava invece illustrando, pensiamo anche ad altri paesi, ma non solo, insomma, in prospettiva anche al nostro e alle dinamiche europee, Lisi. Ma intanto facciamo una premessa importante. Di fatto, per le dimensioni che hanno Facebook e gli altri social, di fatto sono degli stati, pur in dimensione digitale, perché superano completamente i territori dello Stato e sono fuori dallo Stato di diritto. È difficile per uno Stato intervenire, anche con urgenza, per impedire un accadimento digitale. Quindi è normale che bisogna trovare degli strumenti nuovi. Dall'altra parte, una recentissima sentenza della Cassazione, per esempio, molto criticata, devo dire, del marzo del 2019, ha previsto per esempio che un blogger risponde come il direttore di una testata dei contenuti all'interno della sua piattaforma digitale. Quindi questi stessi principi potrebbero facilmente essere applicati anche ai prestatori di servizi social. Quindi non possono dire che sono totalmente irresponsabili dei contenuti altrui, devono stare ben attenti a quello che succede all'interno dei loro ambienti digitali. Dall'altra parte però non possiamo ignorare che è difficilissimo, no, per i tempi anche della giustizia, non solo italiana, agire di volta in volta per poter impedire determinati scadimenti o bloccarli. Allora, l'idea quale può essere? Poiché la dimensione è sovranazionale, questo è indubbio, il digitale è fuori, no, è anazionale come dimensione, quindi non appartiene a nessuna nazione, probabilmente, come è stato già in passato con il diritto romano, dovremmo aspirare a forme di jus mercatorum, così si chiamavano, cioè leggi che abbiano dimensione sovranazionale, con accordi tra diversi stati, dove si affidino sì a strumenti digitali, quindi anche ad algoritmi, no? Azioni di pulizia, però il problema è il controllo degli algoritmi, devono essere algoritmi aperti, conosciuti, affidati anche a giudici, magari esperti di diritto dell'informatica, che possano naturalmente dovete in qualche modo aiutare questi filtri a fare giustizia, perché se no è arbitrio, non è giustizia, è far web. Ecco, allora su questo e su, in particolare sul conflitto tra spazio pubblico e spazio privato, sono molti messaggi che ci state mandando, e anche sulla decisione, le reazioni alla decisione di Facebook. Per esempio Loredana da Torino dice: mi domando e vi domando, apologia del fascismo è o no un reato, e se lo è perché vi scandalizzate? Oppure, beh, la domanda esistenziale di un altro ascoltatore che chiede: qualcuno mi spieghi per favore a cosa serve Facebook, per questo non basterebbe 100 puntate, anche noi in qualche modo ce lo stiamo ancora domandando, seppure utilizziamo tutti i giorni. Bruna scrive: la rete è una finestra sul mondo, ma gli stati hanno paura delle libertà. Brutta storia, chi decide che cosa è buono? Allora, questi messaggi anche per introdurvi l'altro ospite che è collegato con noi, Michelangelo Bovero, buongiorno. Buongiorno. Bentornato, filosofo, insegna filosofia della politica all'Università di Torino, dove dirige anche la scuola per la buona politica. Bovero, allora, uno spazio che tutti noi consideriamo eminentemente pubblico e libero, pur vedendone i limiti, e che però invece è privato, cioè un'azienda che segue le sue ragioni, le sue regole interne. Aziende private, peraltro, aggiungo, che devono parte del proprio successo proprio all'uso, alla presenza massiccia del pubblico per eccellenza, cioè la politica. E scrive oggi Mattia Feltri sulla Stampa: troneggia sulla legge dello Stato una legge privata, opaca e sovranazionale con cui si separano i giusti dagli ingiusti. Ecco, Bovero, il problema è questo: in assenza di leggi dello Stato, che appunto Facebook non ha, chi può stabilire e come cosa è giusto e cosa non lo è? E si può chiedere, secondo lei, a questi soggetti sovranazionali di adeguarsi alle leggi degli stati? Io non metterei la questione in questi termini. In primo luogo, Facebook è pubblica soltanto nel senso di accessibile, non è pubblica nel senso del potere politico, del potere del pubblico. Il potere in pubblico, di ciò che è accessibile, va regolato anch'esso. È un grande potere, è un potere di un'azienda privata come di tante altre aziende private, e la democrazia, comunque venga intesa, non è uno spazio che consenta né la presenza di pieni poteri, di poteri assoluti, né di diritti assoluti. Nessun diritto è assoluto, neanche il diritto alla libertà di espressione. Da sempre esistono controversie sul hate speech, sulle comunicazioni di odio, la regolazione è differenziata evidentemente da ordinamento a ordinamento, ma bisogna mettersi in testa che non esistono diritti assoluti, tutti i diritti hanno dei limiti e vanno regolati. In questo caso, ovviamente, come lei ha appena detto, non basterebbero 100 puntate a discutere di pubblico come accessibile, libertà, internet e Facebook. Posso consigliare una lettura. 6 mesi fa è uscito un articolo su una prestigiosa rivista italiana di una valente studiosa di e-democracy, di democrazia elettronica, intitolato «Può la democrazia sopravvivere a Facebook?». Ebbene, il problema è estremamente controverso, ma certamente la democrazia non sopravvive se neanche Facebook o altre aziende analoghe non si impongono dei limiti. Senta, Bovero, tra le telefonate di questa mattina e tra la sequenza dei fatti di ieri, c'era anche chi poneva l'accento su quanto è successo in una piazza fisica, quella di Montecitorio, durante la manifestazione e protesta ieri pomeriggio, ieri mattina, contro il nuovo governo, e appunto poi la decisione di Facebook di chiudere i profili degli account di Forza Nuova e Casa Pound e dei loro leader. Quindi abbiamo due piazze, quella fisica e quella, chiamiamola virtuale, dove comportamenti pubblici vengono interpretati e o consentiti in maniera diversa. Era anche un po' una domanda che poneva uno degli ascoltatori questa mattina, che lamentava una assenza di democrazia nella decisione di chiudere questi profili. Ovvero queste due piazze, insomma, sono tanti messaggi questa mattina che ricordano, giustamente lo abbiamo fatto anche noi, come ci sia naturalmente il diritto a manifestare, ma non a esibire simboli e slogan fascisti nel nostro paese. Questo è quello che è accaduto nella piazza fisica ieri e non in quella virtuale. Questo è il primo aspetto da sottolineare. Esistono, anche se violentemente disattese, molto spesso disapplicate, leggi che riguardano l'apologia del fascismo e sul territorio dello Stato italiano dovrebbero essere fatte valere con le relative sanzioni. Naturalmente tutto deve essere applicato con grano salis. I grandi diritti fondamentali debbono poter essere bilanciati fra di loro. Il diritto di riunione, che significa in politica anche il diritto di protesta collettiva, anch'esso è un diritto fondamentale, che anch'esso non è un diritto assoluto, ha i suoi limiti, in questo caso limiti di legge, limiti normativi che vanno applicati. E tra l'altro, tra i messaggi che arrivano, vede Bovero, appunto Riccardo scrive qualcosa relativo a quello di cui stiamo discutendo. Scrivo da Piacenza: perché parliamo ancora di censura nei confronti di Casa Pound, considerando il fatto che abbiamo deciso democraticamente l'esclusione del fascismo dalla nostra politica? Ciò che vediamo oggi sono fascisti nascosti dietro a un dito. Io vi ringrazio tutti gli ospiti che ci hanno portati fin qua. Michelangelo Bovero, l'ultimo per ordine di apparizione, filosofo della politica a Torino; Fabio Chiù, blogger e esperto di materie digitali; Andrea Lisi, avvocato, esperto anche lui di diritto e l'informatica. Rimando a un suo articolo su Agenda Digitale: Facebook chiude Casa Pound perché se sei democratico non devi esserne troppo contento. E poi ancora Antonio Pavolini, analista dei media digitali. Grazie a tutti voi che ci state scrivendo diversi messaggi. Per esempio Andrea, che dice: ricordiamoci però che c'era fino nel 1992 un quotidiano famoso che si chiamava La Verità, la Pravda in Unione Sovietica. Ora vi proponiamo un brano della giovane cantautrice siciliana Claudia Lagona, in arte Levante, nata in Sicilia, Caltagirone, nel 1987, si trasferisce poi da bambina con i genitori a Torino, dove cresce artisticamente. Ebbene, nel suo album del 2017, Nel caos di stanze stupefacenti, appare questa canzone, che è un affresco della giornata digitale di chi combatte con lo scudo dello schermo, le armi da tastiera e lancia opinioni fino a sera. Levante, non me ne frega niente. Era Levante, Claudia Lagona, che cantava Non me ne frega niente, il brano che avete ascoltato. Sono davvero molti i messaggi che ci state mandando. Adesso ne leggo qualcuno, ma intanto gli aggiornamenti che scorrono sugli schermi qui davanti a noi, la discussione sulla fiducia naturalmente, ma anche una notizia che in qualche modo ci riguarda, la morte di Stefano Delle Chiaie, accusato di concorso esterno nella strage di Bologna, morto a 83 anni, latitante fino al 97, poi arrestato a Caracas, era stato assolto nel processo per insufficienza di prove e viveva a Roma, dove animava il dibattito della destra estrema. L'ultimo ospite di questa mattina, anzi l'ultima ospite collegata con noi, Noemi Disegni, buongiorno. Buongiorno. Presidente dell'UCEI, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Senta Disegni, stamattina abbiamo letto presto sui social network tanti auguri per il compleanno di Liliana Segre, la senatrice a vita che compie oggi 89 anni. Anche nelle telefonate arrivate a prima pagina, Giulio voleva ricordarla e fare gli auguri alla senatrice. Adesso scusi, ma sto cercando gli appunti sulla telefonata di Giulio perché era interessante. Diceva appunto, eccola qui, è la viva testimonianza dell'orrore, dell'odio che il fascismo al potere è in grado di praticare. È importante ricordare oggi, festeggiare il suo compleanno contro l'odio di chi fa il saluto romano in piazza e ha tatuaggi nazisti, si riferisce quindi a quei valori. Questa è un po' una nota stridente a cui abbiamo assistito ieri durante la manifestazione contro il governo e poi con la decisione da parte di Facebook di chiudere i profili di Casa Pound e di Forza Nuova. Insomma, Disegni, al netto di quello che hanno detto i nostri ospiti precedenti sui limiti e dubbi, le opacità rispetto a questa decisione, laddove non è riuscita la politica, la magistratura, è arrivato un social network a intervenire come argine al fascismo. Disegni, come interpreta questa? Anzitutto auguri a Liliana, e la sua festa credo debba essere ed è la festa di tutti noi e di chi vuole affermare proprio le sue parole, il suo pensiero e i valori che cerchiamo tutti di difendere. Il tema è proprio quello di fare sinergia tra i vari livelli, tra quelle che possono essere determinazioni di tipo legislativo, governativo e che si calano dall'alto, e quello che dal basso, e quello che la società digitale, ma che in realtà riflette un mondo estremamente reale, può fare in autotutela e cercando di venire incontro a quello che diventa un sentito estremamente comune e che non è più difendibile neanche con il discorso della libertà di parola o la libertà di espressione. È assolutamente da difendere e sono questi i valori della Costituzione su cui tutti oggi ritorniamo. La libertà non può essere quella di ribadire principi che non sono assolutamente quelli della vita e del rispetto, della dignità e del riconoscimento di valori fondamentali. Non può essere libertà di urlare né a quelli che erano i valori di una volta, né quelli che oggi, cioè, valori di una volta calpestati e sembrati valori portati al regime, né quelli che quella specie di nostalgia diventa un nuovo regime, un nuovo desiderio di stabilire qualcosa di nuovo. Quindi bene che è stato fatto questo oscuramento, ci sono tante altre realtà sulle quali dover intervenire. Forse il messaggio di fondo è quello di capire che quando si usano come slogan o come parole anche negli stadi, anche in tanti altri contesti, ma anche nei contesti più intelligenti, nelle accademie, stili, toni e forme di discriminazione, di esclusione, queste forme poi assumono forma, assumono struttura, diventano movimenti e non sono da sottovalutare. Peraltro sui toni che vanno in stretta compagnia con i contenuti, sarà interessante vedere anche quanto le dichiarazioni di ieri del Presidente del Consiglio Conte in nome di una nuova mitezza appunto dei toni porteranno al nostro dibattito. Senta Disegni, c'è un messaggio, quello di Marianna, che dice: apologia del fascismo, certo è importante ricordarlo, ma bisogna anche considerare che Casa Pound può presentare le sue liste alle elezioni politiche, quindi tanto fuori legge non è, su un social network no, ma in Parlamento sì. Disegni. E il tema è quello proprio di come oggi è definito il reato e cosa è esattamente vietato. L'apologia del fascismo oggi è vietato nei limiti in cui vi è anche quella volontà soggettiva di ricostituzione del partito fascista, e non sono solo le manifestazioni di nostalgia o di segni o di parole. E allora l'esame di questa volontà o non volontà di ricostituzione diventa il discriminante della fattispecie, e su questo proprio siamo chiamati a intervenire, perché forse oggi l'apologia o cosa vuol dire fascismo, cosa era allora e quali sono oggi le forme che vogliamo arginare, vanno ben definiti anche a livello di lessico preciso, normativo, e di fattispecie normativa, perché poi diventa, si arriva poi nelle aule giudiziarie e sistematicamente non vi è nessun divieto neanche di manifestare in un determinato modo. Senta, quindi su questo appunto c'è l'invito al nuovo legislatore a riflettere e intervenire. Capisco che non è semplice, perché si tratta di tutta quella categoria dei reati del pensiero. Su questo peraltro, ma non solo, immaginiamo, anzi lo sappiamo, si tornerà in qualche modo, immagino, anche il 15 settembre, quando si celebra tra pochi giorni la giornata europea della cultura ebraica. Disegni. Grazie per averlo ricordato, e l'invito a tutti coloro che ci ascoltano, a tutta la cittadinanza, di partecipare a questa giornata che si tiene nella sua 20ª occasione. E proprio il desiderio è quello di far comprendere quanto la cultura ebraica è parte della cultura del paese, dell'Italia, aprire tutte le porte, rendere partecipi tutti a qualcosa che fa parte del nostro quotidiano, che viviamo nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, e con il desiderio di preservarlo, valorizzarlo e farne diventare parte tutti quanti. E quest'anno il tema è il sogno, che è un elemento caratterizzante, molto identitario per ciascuno di noi nelle nostre vite, ovviamente fisiologiche, però anche come popolo. E forse questo è proprio l'augurio, l'invito anche all'Italia, anche in questo giorno, ieri e oggi importante di voto, è quello di essere capaci di concepire un proprio sogno, perché non è solo il desiderio che tutto si risolve, tutto diventa facile, semplice, tutti stiamo meglio, ma il sogno di un popolo vuol dire essere in grado di strutturarsi in un percorso, vedere dove si vuole arrivare, in quale luogo si desidera vivere, quindi sapersi raccontare nel proprio passato e saperlo posizionare in un futuro in una maniera articolate e strutturate. Questo è l'augurio che possiamo. Sogno diventa così una parola molto concreta. Noemi Disegni, presidente Lucei, grazie per essere stata con noi. Adesso ci lasciamo per qualche istante e ascoltiamo il GR3 L'Onda Verde, poi torniamo in studio con le vostre voci e le vostre storie. Un maggiore? Sei stato promosso, Ferrarin. Che stupido, per quale ragione sei tornato? Io vado dovunque mi vada di andare. Stavolta le autorità non chiuderanno un occhio. Sei stato pedinato. Li ho seminati. A tuo carico è stato emesso un mandato di cattura per non collaborazione antistatale, spatrio e rimpatrio clandestini, idee degenerate, crimine d'essere un maiale di sfrontata indolenza ed esposizione d'oscenità. Razza di idiota, ti pare ci sia da ridere? Parlano anche di confiscare il tuo idrocaccia. Certo, è proprio un film tremendo. Senti, Marco, rientra in aeronautica. Ora come ora, con il nostro potere, in qualche modo faremmo. Piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale. L'epoca degli aviatori di Ventura è finita. Non resta altro che volare su barcate di sponsor triviali come lo Stato o la Nazione. Io non volo che con i miei proventi. Tra Porco Rosso, film di animazione giapponese, il 1992, di quel genio visionario che Hayao Miyazaki, la storia di Porco Rosso ambientata in Italia negli anni 30, un'Italia anni 30 in parte reinventata, la storia di un aviatore mercenario che ama battersi per il suo onore e forse anche più di altri film del regista, un atto d'amore verso le culture altre, lontane dalla sua patria. Dentro c'è la minaccia del fascismo, la solarità del Mediterraneo, la suggestione del passato. E da un genio visionario all'altro, quello che ricorda Claudio in un messaggio: mai letto Gibson come dialoga il cyberspazio con la realtà? La Costituzione che vieta l'apologia, giudici che assolvono, Facebook che vieta il privato efficiente e lo Stato assente. Le origini del padrone di Facebook hanno valore nelle scelte? Si crede Claudio, che si riferiva a William Gibson, uno scrittore americano considerato l'inventore, l'esponente di spicco del filone narrativo cyberpunk. Ci sono già gli ascoltatori collegati con noi, ma c'è anche Sara Sanzi che mi ha raggiunto in studio per riportarci le vostre reazioni e i vostri commenti in rete. Sara, ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Rosa, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Parla di Stato e di privato anche l'ascoltatore di cui leggiamo oggi il primo messaggio, e Massimo ci scrive sulla nostra pagina Facebook e dice: certo, ogni diritto ha dei limiti, però i limiti li dovrebbe porre la legge dello Stato in cui si esercitano e non un'azienda privata che su quei diritti guadagna dei soldi. Su Twitter abbiamo invece Luca: ormai siamo arrivati a un tale livello di assuefazione che anche se Facebook e Instagram compiono una normale azione di ban per continue violazioni delle regole, diffusione di fake news e incitamento all'odio, siamo qui a domandarci se sia giusto o meno. E poi Christian, in maniera molto semplice, spiega: il proprietario di Facebook è come il proprietario di un bar. Il proprietario del bar può decidere che alcune persone non entrino nel bar. Allora, sentiamo invece la voce viva di Giulio, il primo ascoltatore collegato con noi. Buongiorno Giulio, da dove chiama? Buongiorno, e da Mestre chiamo io. Allora, io faccio una riflessione, no, più che altro su cos'è la censura, perché cioè, nella nostra vita, cioè, tutte le persone abbiamo taciuto su fatti della nostra propria vita, perciò la censura è umano. E naturalmente la politica e le piattaforme sono sempre guidate da uomini, perciò soggette a questo sentire delle persone, a questo sentire umano, no? Cioè, d'altra parte ci troviamo che oggi c'è un gridare allo scandalo, alla censura, e quando possiamo dire che magari in passato questi stessi che urlano la censura l'hanno esercitata, potrebbero benissimo sapere se l'hanno esercitata o no. Allora, comunque censurare è sempre alla fine occultare, no? Molte volte con le migliori intenzioni, ma credo che alla fine censura o non censura, tutti riusciamo a farci un'idea e una comprensione della realtà. Beh, questo è quanto volevo dire. Grazie Giulio. Tra l'altro, quello che ci sta dicendo in parte forse anche contenuto nel messaggio di Eric, che ci scrive: il rischio maggiore, mi sembra, è l'eliminazione di qualsiasi contenuto delicato o discutibile, quindi all'estremo di qualsiasi discussione. C'è Valerio anche collegato con noi. Buongiorno Valerio, benvenuto. Buongiorno. Sì, buongiorno. Da dove chiama? Cosa voleva dirci? Io chiamo da Pescara e segnalavo la mia impressione riguardo al fatto che probabilmente non c'è da essere contenti che gli interessi privati fermino delle manifestazioni politiche. Però è anche vero che quando queste sono alimentano la violenza, alimentano l'odio, alimentano la disgregazione, il razzismo, e tutti quei sentimenti che spesso appunto sono legati ai discorsi di odio che vengono presentati sui social network, evidentemente in qualche modo bisognerà anche controllarli, combatterli. Io sono convinto che questi diciamo che sono stati bloccati non abbiano molto diciamo, non siano molto diversi da quelli che addirittura si potrebbero mettere nelle parole di vedere nelle parole di Trump o di Salvini o della Meloni o di Vittorio Feltri. E in molti casi questi atteggiamenti servono per creare consenso. Allora io, diciamo, segnalavo solamente, un po' divertito anche, il fatto che da alcuni anni contribuisco ad alimentare dei post su un sistema social che gestiamo principalmente per promuovere il concetto che la bicicletta è uno strumento di pace, dicendo che raccontando delle storie. Addirittura pubblichiamo dei numeri di quello che abbiamo chiamato The Fake News Journal, cioè un giornale che si anticipa dicendo che tutte le notizie saranno false. Allora, grazie Valerio anche per questo contributo e per questa segnalazione. Magari poi cercheremo di seguire anche questo vostro lavoro. Albert, da Torino, giusto? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie. Senta, a me invece in questi giorni sono venute in mente le parole di Montale, mentre quando compone la primavera hitleriana, no? Dopo aver visto sfilare Hitler e Mussolini nella primavera del 38 a Firenze, e quando scrive che è folta la nuvola bianca delle falene impazzite, turbina intorno agli scialbi fanali e sulle spallette. Ecco, quelle parole lì a me fa venire voglia di dire grazie a Facebook o chiunque eserciti nel proprio ambito l'antifascismo. Tutto qui. Grazie Albert per il suo contributo e anche per aver recitato quei versi di Eugenio Montale. Sara. Rosa, prendiamo spunto dalle parole del secondo ascoltatore di oggi, Valerio, per citare una iniziativa, si chiama Odiare ti costa. È un'iniziativa che è stata messa in campo quest'estate, lanciata dall'associazione Tlon e dallo studio legale Wildside di Katie La Torre, che è un'avvocata bolognese attivista LGBT. Grazie a questa associazione si possono perseguire in sede civile diffamazioni, calunnie e minacce lanciate attraverso internet e in particolare sui social. Chiunque ne sia vittima può mandare una mail all'indirizzo odiareticosta@gmail.com e a questo punto ci si potrà mettere, insomma, a iniziare un'azione legale. Allora c'è Claudio, 30 secondi, forse meno. Buongiorno. Buongiorno. Niente, io le vostre considerazioni mi hanno fatto pensare a Gibson, in particolare quando un vostro ospite ha detto che il testo non può essere né vero né falso, ma in realtà nel ciberspazio noi siamo il testo, perciò siamo quello che scriviamo. L'ho letto perciò... infatti il suo messaggio. Claudio, grazie per aver citato anche William Gibson. Noi vi salutiamo e diamo la linea a Laura Silvia Battaglia e a Radio Tremondo. A questi microfoni c'erano Rosa Polacco e Sara Sanzi. Di là dal vetro, Piero Pugliese in regia, Emanuele Francisci alla parte tecnica, Cristina Faloce in redazione con Cristiana Castellotti alla cura. Ci risentiamo domani alle 10, tutta la città ne parla. Thank you.